E allora, 10 e 19 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, venerdì 28 novembre 2014. Andiamo a ricominciare la mattinata di Radio Onda Rossa dopo la rassegna stampa e andiamo a ricominciarla con un approfondimento redazionale. E possiamo approfittare anche della presenza di una nutrita presenza qui in studio, cosa di cui siamo molto contenti. Un approfondimento redazionale che ha oggi per tema una questione che sicuramente non è nuova a chi ci sente, ma non è nuova a nessuno di questo paese, perché è stata una delle dei temi bomba, diciamo, delle scorse settimane, degli ultimi due mesi, ovvero sia il famigerato virus Ebola, con tutto quello che ciò ha comportato in Africa e purtroppo anche qui da noi. Si è detto praticamente tutto il contrario di tutto per diverse settimane. Insomma, i giornali da queste parti facevano a gara chi strillava il titolo più allarmante, e con tutto quello che poi ne è conseguito anche per quanto riguarda la nostra serena convivenza civile anche nella nostra città, ahi noi. E poi a un certo punto non se ne è più parlato, silenzio, i giornali hanno ripreso la notizia solo all'inizio di questa settimana per l'arrivo di un medico contagiato dalla Sierra Leone, ma insomma, sempre cose molto molto confuse. Noi, per cercare di sfatare un po' questa confusione, abbiamo qui insieme a noi due compagni, lavoratori dello Spallanzani, tra cui un ex redattore che ci fa molto piacere avere qui con noi, e poi un'operatrice di Medici Senza Frontiere, benissimo, l'ho detto giusto, di che sappiamo che avremmo sbagliato, poi su questo punto invece no, che è stata per diverso tempo in Liberia. E per cui io darei intanto subito la parola a lei, a te, come sempre un grande ringraziamento per essere qui con noi. Direi di cominciare facendoci un po' una sorta di riassunto della vicenda che tutti conoscono, però poi cercare di raccapezzarci sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista delle conseguenze è molto complicato. Per cui partiamo dal dato scientifico: che cos'è questo Ebola e perché questa ondata di drammatizzazione, giusta e sbagliata, si è esagerato, com'è la situazione in Africa e com'è la situazione qui? Innanzitutto buongiorno a tutti i compagni e le compagne, grazie ai compagni e alle compagne di Radio Onda Rossa per aver dato questo spazio a un argomento che insomma, solo a nominarlo, a volte Ebola fa paura. E allora, la mia esperienza è stata intanto a Monrovia, la capitale della Liberia, ma il Ebola, che è un virus è identificato nel 1976 e che fino ad oggi è stato protagonista di diverse epidemie, più di 20, ma di cui non si è mai parlato. Questa volta è protagonista di un'epidemia che ha superato diverse le frontiere di diversi paesi. A fine marzo cominciamo ad avere diversi casi in Guinea. Medici Senza Frontiere interviene e lancia un primo allarme, dice: guardate, ci sono dei casi di Ebola in Guinea. E i casi cominciano ad essere sempre di più, diversi morti, e il virus si propaga, supera le frontiere e si propaga in Sierra Leone. Altri casi, altri morti, e Medici Senza Frontiere anche in Sierra Leone lancia altri allarmi, ma viene poco ascoltata. Insomma, non si pensa che questa sia un'epidemia come quelle che si sono avute in passato, relegate in zone remote. Purtroppo però in Guinea l'epidemia ha raggiunto anche Conakry, che è la capitale, e in capitale ci sono c'è una densità di popolazione enorme, quindi il virus riesce a propagarsi molto velocemente, anche perché le persone si muovono. E dalla Guinea a Sierra Leone il virus passa alla Liberia, e in Liberia e fine luglio comincia l'epidemia veramente comincia ad esplodere in un dramma incredibile, tantissimi casi, veramente tanti come non ci aspettavamo, quindi appelli alla comunità internazionale che in qualche modo si muove, ma si muove facendo riunioni, incontrandosi nei palazzi insomma di vetro, ma in pratica non si vedono aiuti, e quindi Medici Senza Frontiere ancora da sola a cercare di arginare questa epidemia. E arriviamo ad oggi, cioè ad oggi il virus Ebola nell'Africa occidentale ha creato più di 15.000 casi, e scusate se entro un po' nei particolari, ma caso vuol dire i casi confermati, cioè di persone positive, e casi sospetti di persone che ancora sono state probabilmente testate o dovranno avere un test di sangue per appunto trovare il virus, e quindi sospette nel senso ancora non si sa se sono state contagiate. Comunque in totale più di 15.000 casi e quasi 6.000 morti nell'Africa occidentale. Allora, in Liberia veramente i numeri sono enormi. Fino adesso abbiamo avuto più di 7.000 casi e quasi 3.000 morti. Quindi quasi il 50%, possiamo dire? Sì. E quasi 3.000 morti. Quindi Medici Senza Frontiere si è veramente trovato di fronte in Liberia ad una situazione catastrofica, e quindi che cosa fa? Decide di aprire uno dei centri più grandi per il trattamento dell'Ebola, che si trova a Monrovia. Attualmente abbiamo una disponibilità di 240 posti letto. All'inizio i posti erano più o meno 120 e quasi subito sono stati occupati tutti, quindi immaginatevi una folla di gente che va verso il centro per essere curata. A un certo punto veramente Medici Senza Frontiere si è trovato di fronte a anche un dramma etico, che era quello: non ho più posti letto, non posso, per la sicurezza degli operatori non posso far entrare più nessuno, gente moriva fuori. Cioè io ho dei miei colleghi che hanno lavorato anche in diverse missioni e quindi sono stati presenti in quel periodo, e mi dicono che per loro è stato molto difficile, difficile dire ad una persona che ti sta morendo di fronte scusa, non posso accettarti. Io per fortuna non mi sono mai trovata in questa situazione, spero di non trovarmici mai, ma immagino per un sanitario, ma anche per un non sanitario, dover dare una risposta del genere. E questo centro di trattamento per l'Ebola io l'ho sempre considerato una macchina enorme, una macchina che non si ferma mai, 24 ore su 24 lavora, è una macchina formata da diversi ingranaggi, nel senso che appunto si pensa sempre a Medici Senza Frontiere, i medici, gli infermieri, il personale sanitario, ma dietro insieme a noi ci sono altre professioni e altri esperti e colleghi che invece si occupano di supportarci, quindi parlo dei logisti, parlo di chi, degli igienisti, o parlo di chi si è occupato di, nel caso dell'Ebola, di preparare l'acqua con il cloro per evitare che il contagio si propagasse, o comunque per fermare la trasmissione del virus, che in qualche modo la fermi soltanto delle volte anche con un semplice lavaggio delle mani. Il virus fuori dall'organismo umano è molto debole. Quindi vuoi spiegare magari un attimo come funziona, sì, la trasmissione del virus, perché magari tanti e tante non lo sanno. Certo, cioè, più che altro pensano di saperlo, forse è molto più grave. Non diamo per scontato niente, insomma, dai. Allora, ecco, la prima cosa che voglio dire è che la trasmissione non è una trasmissione aerea, cioè non si propaga il virus, non si trasmette come una semplice influenza. Assolutamente no, è una trasmissione che avviene per contatto diretto con i fluidi corporei di un paziente sano con un paziente, quelli di un paziente o di una persona malata. E quindi fluidi corporei intendo sangue, urine, feci, vomito, saliva e sudore. Quindi diciamo che anche le mucose degli occhi e della bocca, se vengono in contatto con delle particelle anche di saliva, possono essere fonte appunto di contagio. E, però ecco, è importante veramente capire, cioè, come si trasmette il virus. Per capirci, se io faccio una passeggiata a Monrovia non inalo il virus dell'Ebola, ecco. No, esattamente. Sei molto volgari, però. E quindi no, questo è molto importante, perché purtroppo c'è tanta disinformazione anche in Italia per quello che riguarda appunto la trasmissione di un virus, cioè insomma anche le informazioni scientifiche sono importanti, cioè è vero, c'è molta paura, e questa paura è basata, è una paura irrazionale, basata su falsi miti, e questo purtroppo ha creato, almeno mi ha creato personalmente, mi dispiace dirlo, un grande problema. Io al mio ritorno, purtroppo, invece di trovare un'accoglienza calorosa e anche un ringraziamento, diciamo, per il lavoro, ma non solo per me, per tutti quelli che fanno il lavoro ogni giorno in Africa, tutti gli operatori che hanno preso coraggio e sono andati lì a lavorare e a sporcarsi le mani, cioè in un lavoro veramente molto faticoso, perché le condizioni di vita per noi, ma insomma per tutti quelli che lavorano lì, anche per lo staff nazionale, che quindi i liberiani, i guineani o lo staff della Sierra Leone che ci hanno supportato tutti i giorni, sono condizioni di lavoro difficilissime. Quindi il ritorno è stato duro, perché al ritorno purtroppo ho potuto provare sulla mia pelle cosa significa discriminazione. Io sono stata considerata, per fortuna non da tutti, una appestata, cioè una persona che nonostante fosse sana era considerata pericolosa. Peraltro con tutti gli esami, cioè insomma era una condizione di sanità accertata e attestata. Non ecco. Solo, cioè durante il mio lavoro a Monrovia, e cioè con Medici Senza Frontiere, noi abbiamo tutti i giorni messo in atto protocolli e procedure strettissime, nel senso che tutte le volte, e poi casomai spiegherò anche com'era appunto organizzato il nostro lavoro, tutte le volte che io entravo a contatto con i pazienti ero naturalmente, come si dice in gergo, scafandrata, nel senso avevo una tuta molto pesante, un cappuccio, due mascherine, doppi guanti, stivali e degli occhialoni sembravano gli occhiali da sci, e potete immaginare la temperatura a Monrovia era soltanto di 35, a volte 38 gradi, con un'umidità del 100%, quindi potete immaginare che cosa significa entrare così vestiti e fare assistenza ai pazienti. E quindi insomma io vorrei che queste paure in qualche modo, è difficile credo un po' cancellare le paure che uno ha, perché la paura si basa su qualcosa di veramente irrazionale, però l'Ebola è insomma un virus, il contagio, la trasmissione, sono tutte poi cioè se l'informazione è un'informazione fatta decentemente, sono comunque basate tutte queste cose sulla scienza, cioè niente che riguarda appunto il virus, le malattie infettive si basa su luoghi comuni o su sentito dire, oppure appunto su queste paure così, non basate sul nulla. Senti, tu hai ricordato prima che in realtà questo virus si conosce da quasi 40 anni e ci sono state almeno una ventina di epidemie soltanto in questa ristretta zona dell'Africa occidentale. Ecco, perché secondo te, secondo voi, poi questa volta c'è stato questo boom a livello mediatico? Perché in qualche modo ci sono entrati anche gli occidentali, perché c'è stato qualche caso anche da noi, qualcuno ci ha chiesto insomma su possibili insomma disegni politici, economici, insomma, tutto quello che ben conosci meglio di me, però ecco, questa attenzione mediatica ha un senso oppure è uscita fuori così come a volte escono fuori queste cose? Allora, purtroppo l'attenzione mediatica nei paesi occidentali è uscita fuori quando abbiamo cominciato ad avere i primi casi in Europa e negli Stati Uniti. Fino insomma a quel momento in realtà sì, di Ebola si parlava, ma insomma dell'Africa, a volte soprattutto nei nostri media, in Italia si parla pochissimo di quello che succede in Africa, e in Africa oltre all'Ebola ci sono anche tantissime guerre civili, epidemie, e insomma in Liberia specialmente, insomma, che è uno dei paesi, esatto, più martoriati. Liberia, insomma, è uno dei paesi diciamo che purtroppo ha subito due guerre civili, e quindi è un paese che è stato massacrato anche dal punto di vista dei servizi sanitari. Quindi si è cominciato a parlare di Ebola quando praticamente abbiamo avuto il primo caso in Spagna, cioè quello dell'infermiera che si è contagiata in Spagna assistendo naturalmente un missionario che tornava, adesso non ricordo se dalla Liberia o dalla Sierra Leone, questo no, non lo dalla Sierra Leone. E poi del caso di Dallas, dove due infermiere poi si sono contagiate, quindi è iniziata la paura nell'Occidente. E poi, vabbè, a volte, molte volte mi è stato chiesto, ma il virus, cioè, forse è stato creato per dare possibilità alle case farmaceutiche di fare dei profitti, insomma, questa domanda non riesco a rispondere, so solo che adesso l'epidemia c'è, è ancora in atto, secondo me è molto lontana in Africa dal terminare, perché in Sierra Leone purtroppo è ricominciata con tantissimi casi di nuovo, e quindi quello che secondo me adesso dobbiamo fare è continuare ad intervenire, a stare lì, ma anche quello che sto facendo io e quello che è per me fondamentale in questo ritorno da Monrovia, testimoniare. Scusa, perché non si sa nulla. Scusa Alessia, vorrei anche aggiungere una cosa. Io la vedo anche a livello di che Ebola, come tante situazioni in Occidente, in Italia, è stata usata anche un'arma di distrazione di massa, perché comunque come forma di controllo sociale comunque lo Stato usa questo allarmismo, mette paura alla gente con il problema dell'immigrazione, il problema dell'ISIS, il problema dei ipotetici attentati con l'antrace, e terrorizzando le popolazioni, facendo sì che queste, invece di concentrarsi sulle le reali problematiche che potremmo avere in questo momento in Italia, mancanza di lavoro, periferie degradate e quant'altro, giovani che non trovano lavoro e quant'altro, e con questi sistemi, comunque non parlando veramente di quello che succede in Africa con la gente che muore, ma concentrandosi solo sul rischio ipotetico, assurdo, impossibile, che in Italia si possa sviluppare appunto un'epidemia, e sta di fatto, e comunque la gente appunto pensa ad altre cose, non si concentra sui reali problemi, quindi non ci pensa, non si organizza, non capisce che gli stanno togliendo l'articolo 18, e però si concentra, oddio, ecco quello è nero, mi porta l'Ebola, o come 20 anni fa si concentrava sui malati AIDS, oddio, e quelli ci portano l'AIDS, e quindi sono campagne stampa per me mirate scientificamente proprio. Sì, c'è la paura perché sono arrivati i primi casi in Europa e in America, però è una cosa veramente, la vedo scientifica proprio. Non so se siete d'accordo. Sicuramente, cioè sono d'accordo con te, Sandro. Senti, ma mentre lei stava giù, diciamo, e poi è tornata e ci ha raccontato il felice ritorno in Italia, voi che invece stavate qui lavorando e lavorate tuttora in un ospedale romano, anzi quello che per eccellenza si occupa di solito di questi casi, che aria avete vissuto dentro l'ospedale e soprattutto fuori, immaginando che amici, parenti, conoscenti, sapendo che ci sarebbe potuta essere la vaghissima possibilità di venire a contatto con qualcuno, ecco, come si vive il lavoro in queste situazioni, stando qui a Roma ovviamente? Vabbè, noi chiaramente come operatori sanitari che lavoriamo in ospedale di malattie infettive, diciamo che per noi insomma non è una cosa sconvolgente, per noi il nostro lavoro, la nostra routine, quindi non è che ci spaventa questo tipo di malattia o qualcos'altro. Però io come cittadino, nel mio quartiere tutti sanno che lavoro allo Spallanzani, e tantissima gente ha paura, mi ferma, mi chiede, ma ti posso parlare? Ma tu lavori in quel reparto dove adesso c'è il paziente? E i bambini a scuola tutti, ma tuo padre lavora lì. Nel piccolo le cose che diceva Alessia prima, riesco a capirlo quello che intendeva, insomma. poi magari delle cose proprio inerenti alle problematiche dell'ospedale, della sanità in generale, magari ne potremmo parlare dopo, quando magari sviluppiamo più gli argomenti, sfruttiamo più Alessia, insomma, lei direttamente è stata lì e ci può raccontare veramente quello che sta succedendo. Poi ci raccontavi un po' prima di andare in onda, mentre cercavamo di capire come organizzare la trasmissione, che comunque l'Ebola ha avuto un impatto fortissimo nella realtà africana, insomma, anche tra le famiglie, tra le persone che sono state isolate. Ci vuoi raccontare anche in che modo lì l'Ebola ha fatto, insomma, più danni che altro? Esatto, l'Ebola, appunto, oltre a creare morti, tantissimi morti, purtroppo ha avuto un impatto, delle conseguenze sociali nell'Africa occidentale molto, molto forti. E innanzitutto perché, per esempio, in Liberia sono state create, visto che l'epidemia era un'epidemia fuori controllo, purtroppo sono state create delle leggi ad hoc, cioè è stato proprio la presidentessa ha deciso di imporre uno stato di emergenza. Lo stato di emergenza prevedeva chiusura delle scuole. Attualmente non so se sono ancora chiuse, perché lo stato di emergenza è finito, diciamo, 2 settimane fa. Comunque, chiusura delle scuole, quindi bambini senza più diritto di andare a scuola. No più contatti, non ci si può stringere la mano, cioè gesti molto semplici, umani, sì, non ci si può stringere la mano, non ci si può abbracciare. E un'altra cosa che ha creato veramente, cioè, in qualche modo un crollo di quello, o comunque la distruzione di quelle che sono tradizioni molto forti in Africa, il culto dei morti. Tutti i morti, Ebola, non Ebola, verranno cremati. Mai successo in Liberia, cioè mai. E la cremazione era qualcosa che non aveva mai, non era mai entrata nella società, nella cultura liberiana. E insomma, immaginatevi, per le famiglie non poter più, non solo seppellire i morti, non poter più toccarli, nel senso che una volta che una persona è morta, e naturalmente viene pulita, e purtroppo questa pulizia del corpo del defunto è enorme fonte di contagio, nel senso che un corpo morto di Ebola è una delle fonti più contagiose per gli altri. Quindi non più culto dei morti. I morti vengono portati via da alcune squadre, dirlo, di becchini, e vengono cremati, non più seppelliti, per una questione di sicurezza. Immaginate veramente l'impatto che questo possa aver creato nella popolazione liberiana, una popolazione che comunque ha subito un grave trauma da una guerra civile, anzi due guerre civili molto lunghe, e adesso anche l'Ebola. Scusa Alessia, una curiosità, ma questo tipo di informazioni alla popolazione come vengono date? E allora, ecco, esatto, questo è un aspetto molto importante, nel senso che io ho lavorato nel centro di trattamento per l'Ebola, ma non bisogna dimenticare che c'è un lavoro grandissimo da fare nelle comunità. E l'informazione, la prevenzione, la promozione, come si trasmette l'Ebola, questo Medici Senza Frontiere lo sta facendo, ma lo stanno facendo tantissime adesso organizzazioni anche locali. È importantissimo che le persone sappiano. Purtroppo, immaginatevi in Liberia, ma in generale nell'Africa occidentale, all'inizio c'è stata, veniva negata l'Ebola. L'Ebola veniva considerata qualcosa come un maleficio fatto, e quindi qualcuno veniva punito perché era successo, insomma, una stregoneria, era successo qualcosa. E quindi sfatare anche in Africa questo mito, insomma, non è stato semplice. In più, con delle leggi che non permettono più il culto dei morti, e che cosa è successo? Che le persone, soprattutto nei villaggi, hanno cominciato a nascondere i corpi. Pensate quanto poteva essere pericoloso, a nascondere i corpi, oppure purtroppo questa è un'altra conseguenza sociale, a discriminare chi era malato. Non solo chi era malato, anche chi viene curato e sopravvive, perché poi cioè, parliamo tanto Ebola e morte, ma in realtà io ho visto tante persone sopravvivere. E beh, le persone che sopravvivono tornano a casa e non sempre appunto vengono accolti, alcuni vengono cacciati dalle loro comunità, quindi è un fenomeno molto triste e sì, grave. Mi viene in mente un parallelo anche qua in Occidente con l'AIDS, quando no, era il castigo di Dio per gli omosessuali più o meno. Esatto, poi comunque sia a tutte le persone, ai nostri pazienti che sopravvivono, noi forniamo un certificato ufficiale in cui scriviamo il paziente è negativo e è libero di muoversi nella comunità. Purtroppo nonostante tutto non viene creduto, quindi anche per rispondere alla tua domanda Sandro, viene fatto, anche se deve essere potenziato, il lavoro fatto nelle comunità è fondamentale per riuscire a fermare questa epidemia che ancora insomma è lontana dall'essere bloccata. E quindi anche veramente il lavoro che le organizzazioni internazionali devono fare, oltre a quello di trattare tra virgolette poi i pazienti, perché purtroppo di trattamento ancora i trattamenti ancora non li abbiamo, anche se inizieranno dei trial si chiamano a breve, però importante è formare, informare, formare, promuovere l'informazione. Senti, te lo fare un'altra domanda da 100 milioni questa, magari è difficile. Per te che sei stata comunque testimone diretta in questo paese di Liberia, l'Occidente, l'Europa, l'Italia stanno realmente facendo qualcosa di utile per risolvere queste situazioni, per aiutare la gente in Africa, oppure ancora non è stato fatto niente, sono parole o c'è qualcosa di importante ancora da fare? Allora, molto di quello che è stato fatto è venuto dalle organizzazioni non governative. Poi in realtà, insomma, anche i governi, forse tardi, si sono mossi. E quindi, a parte i finanziamenti che sembrano siano stati stanziati, adesso io non so dirvi, non ho dati per dirvi se sono stati stanziati dei soldi dall'Europa, dall'Italia o da qualche altro governo e sono arrivati, però dagli Stati Uniti per esempio sono stati mandati sia civili che militari, appunto per aprire centri di trattamento, e dalla Germania anche. Da Cuba ha mandato molti medici e infermieri, tantissimi. Scusa Alessia, com'è i militari? Se ci vuoi un attimo. I militari sono stati mandati praticamente per creare dei campi, degli ospedali militari, appunto per il trattamento dell'Ebola e per in qualche modo isolare i casi positivi. Diciamo che nel nostro centro abbiamo fatto molti training a tutto il personale da diversi paesi che arrivava, e quindi adesso a Monrovia abbiamo tantissimi centri, quindi anche per questo l'ultima settimana in cui mi trovavo in Monrovia abbiamo ricevuto molto meno ammissioni, probabilmente dovuto al fatto che sono stati creati diversi centri di trattamento, e poi anche perché effettivamente in Liberia i casi sono diminuiti, anche i decessi, ma questo io metto appunto le mani avanti, non vuol dire che l'epidemia in Liberia sta finendo, perché basta un caso o basta che comunque appunto si abbassi un po' la guardia sul problema e di nuovo l'epidemia, come sta succedendo in Sierra Leone, può esplorare di nuovo. Comunque io non critico il fatto che anche i militari abbiano aperto dei centri, nel senso probabilmente, questo non voglio entrare troppo nel particolare, e la presenza insomma degli statunitensi o di altri governi vuol dire comunque stare lì e in qualche modo controllare la situazione, però intanto stanno facendo un lavoro e stanno in qualche modo supportando la popolazione che veramente altrimenti sarebbe stata abbandonata, lasciata da sola a morire. No, ti dicevo questa cosa perché ho sentito dire da alcuni medici che nel passato ci sono stati proprio villaggi dove c'erano stati i primi casi di Ebola, circondati da militari, dove non facevano più uscire nessuno e chi si salvava, chi moria, moria, proprio per appunto come sistema preventivo. Però questo è in passato, adesso non ti so dire. Allora, per quanto riguarda i villaggi. Letale, no, il film, no? Sì. Letale, volevo dire, scusate. Allora, per quanto riguarda i villaggi, non so, sono insomma sicuramente a Monrovia qualche mese fa è stato messo in quarantena un intero quartiere, che è il quartiere di West Point, che è una bidonville di Monrovia, appunto per cercare di arginare l'epidemia. E in più in Sierra Leone, più o meno forse subito dopo, nello stesso periodo, è stato deciso un coprifuoco di 3 giorni, appunto per tenere la popolazione in casa e cercare di rintracciare i contatti o identificare i casi. E diciamo che queste misure sono state prese, non credo che siano state molto efficaci, nel senso che l'epidemia purtroppo è riesplosa con tutta la sua potenza. Senti, beh, esiste, insomma, sicuramente ci sarà un minimo di servizio sanitario locale all'interno di questi paesi, no? E voi in che maniera, diciamo, vi organizzate, vi approcciate con i medici locali, le istituzioni locali? Cioè, c'è un interscambio, oppure la situazione è talmente drammatica per cui arriva diciamo l'ospedale da campo e fa tutto lui? Allora, questa è una domanda molto importante, perché se l'epidemia di Ebola si è propagata anche così velocemente con questi numeri, il problema principale è anche venuto dal fatto che i sistemi sanitari in Sierra Leone, in Guinea o in Liberia praticamente sono ormai inesistenti. Già erano inesistenti prima dell'epidemia. Purtroppo l'epidemia ha provocato la morte di tantissimi operatori sanitari, e qui, cioè, io veramente mi sembra giusto dare anche 2 numeri. Dall'inizio dell'epidemia si sono infettati quasi 600 operatori africani nel senso della Guinea, della Sierra Leone e della Liberia, e 337, questi sono dati insomma abbastanza attuali, sono morti per aiutare le persone, purtroppo, e sono morti perché in questi ospedali non avevano accesso a dei presidi, delle tute di protezione, dei presidi che a volte neanche ai guanti che potessero difenderli o comunque proteggerli da questo virus. E quindi diciamo che le organizzazioni che sono arrivate, tra cui Medici Senza Frontiere, ha cercato di sostenere appunto i servizi sanitari scarsi o del tutto assenti. E molto del personale, appunto in questo caso liberiano, perché ero in Liberia, ha iniziato a lavorare con noi. E diciamo che per me è stata un'esperienza anche molto forte avere tutti i giorni come collaboratori gli infermieri, i medici, ma non solo, insomma anche i logisti liberiani, perché potevo in qualche modo confrontarmi con loro su quello che voleva dire per loro vivere l'Ebola. E vi assicuro che c'erano situazioni anche molto molto dure, molto pesanti per loro, ma anche per me è stato difficile, perché molti di loro hanno perso tantissime persone alle famiglie, molti di loro non possono tornare a casa perché lavorano tutti i giorni con i pazienti di Ebola e la loro famiglia non li vuole vedere, e molti di loro hanno perso familiari nel nostro centro, quindi immaginatevi anche il carico emotivo per loro, e devo dire indirettamente anche per me, perché insomma cercare di aiutare e di il mio staff che era lì e da qualche giorno aveva perso i figli o il marito, è stato molto difficile, a volte quasi più difficile dell'assistere i pazienti. Immaginabile, insomma. Sentite, io direi di prenderci una piccola pausa musicale, poi credo che abbiamo una corrispondenza, insomma una telefonata, perché abbiamo altre testimonianze dall'Africa, da un altro luogo, diciamo non al centro dell'epidemia, però dove c'è stato anche lì qualche caso, e insomma c'è una nostra compagna che è reduce da poco e voleva fare un piccolo racconto anche lei. Ok. 10:56, ritorniamo in diretta in compagnia telefonica stavolta di un'altra compagna, anche lei reduce dall'Africa da poco, da un altro paese, questo per fortuna non direttamente impegnato nell'epidemia, però anche lì si sono registrati dei casi. Allora, buongiorno intanto, qual è la tua esperienza delle ultime settimane? Grazie per questa trasmissione, perché è veramente interessante, vi stavo ascoltando ovviamente. E, innanzitutto, vabbè, il mio intervento sarà semplicemente la testimonianza di una persona inesperta di tutto, Africa compresa, perché era il mio primo viaggio in Africa, che è appena tornata dal Mali. Il paese è il Mali, dove a oggi si sono registrati una decina di casi. Almeno questo è quello, insomma, di cui sono stati resi, di cui è stata resa e tutta informata l'opinione pubblica. E quello che io posso raccontare, il Mali, vabbè, è sempre un paese dell'Africa occidentale ed è confinante con la Guinea, quindi con uno dei paesi direttamente interessati dall'epidemia. E dalla Guinea, il confine fra l'altro con la Guinea è molto vicino a Bamako, sono un centinaio di chilometri. E quindi da quando si sono registrati questi casi, ovviamente la paura che serpeggia nel paese è soprattutto quella di ingressi dalla Guinea attraverso, diciamo, non le frontiere istituzionali, ecco. Quello che posso essenzialmente raccontare io è sono due cose. Uno, come dire, la pompatura della paura, anche stando in quel paese e poi soprattutto prendendo un aereo e tornando in Europa, da un paese che viene incluso oramai nell'elenco di quelli con l'epidemia, anche se, ripeto, si tratta di 10 casi di cui i sanitari stanno seguendo la filiera, insomma, no, in qualche modo. E lì è successo, prima c'è stato un caso di una bambina che sembra non aver prodotto altri contagi. Scusa, mi sentite? Sì, perfettamente. Ok. E dopodiché sembrava che fossero riusciti, insomma, attraverso la quarantena delle persone che erano entrate in contatto con la bambina, a non far entrare il virus nel paese. Dopodiché c'è stato invece un altro caso che, come dire, ha creato il panico, ma anche per un motivo molto specifico, e cioè che questo caso si trattava di un imam che arrivava dalla Guinea e che era stato curato in una clinica che è una clinica cara, una clinica per ricchi, per bianchi, quindi per lo più, cioè in un paese dove c'è una presenza di europei e nordamericani molto alta a causa della guerra nel nord, quindi tutti i soldati e quindi tutte le cooperazioni nazionali, l'ONU, eccetera. E questo ovviamente ha scatenato il panico che nella clinica dei garantiti fosse arrivata l'Ebola. Per di più, la clinica, anche se questa cosa non è stata esplicitata, non è che si è completamente preoccupata di perdere introiti, inizialmente non l'ha detto, e si è saputo soltanto quando è morta un'infermiera della clinica. E l'altra cosa che, come dire, particolare di questo evento maliano è stato che la persona che è arrivata contagiata da un altro paese, appunto, era un imam, e quindi era un imam anche anziano e piuttosto famoso. Questo ha fatto sì che ascoltavo prima, no, tutte le norme rispetto ai funerali, che hanno anche cambiato le abitudini sociali, insomma, nei paesi africani. Ecco, in questo caso non sono state rispettate e l'imam ha avuto la sua cerimonia pubblica sulla base del fatto che c'è stata evidentemente una pressione, non so da parte di chi, eccetera, e quindi adesso è, come dire, siamo in un momento di limbo in quel paese, in attesa di capire, insomma, se questa concessione all'IMAM in qualche modo ha prodotto ai danni. L'altra e ultima cosa, e poi insomma vi lascio alle cose più interessanti che stavate dicendo, è il fatto che appunto io poi sono tornata in Italia e tornando in Italia è chiaro che è giusto insomma che nei passaggi tra i paesi ci sia il controllo perché l'epidemia venga limitata sempre di più eccetera, però io ho trovato veramente ossessivo il modo in cui siamo stati trattati nel passaggio dal Mali alla Fortezza Europa in qualche modo, tanto che io avevo un volo per la Francia, per Parigi, tanto che le autorità francesi sono venute a controllarci fino a Bamako, cioè mi è stata presa la temperatura sia da un infermiere maliano che da un'infermiera francese quando era ancora nella capitale del Mali. Cioè questo prima di partire, quindi? Questo prima di partire, sì, all'aeroporto di Bamako. E continuavano a passare messaggi sui display sull'altoparlante dell'aeroporto, display autoparlante messi apposta per l'Ebola perché prima non c'erano, che dicevano che se vedevi un tuo vicino di posto in aereo che si sentiva poco bene, di denunciarlo all'autorità sanitaria. Ora è chiaro che meccanismi di questo genere, a mio parere, più che garantire la sicurezza sanitaria delle persone, scatenano il panico e soprattutto la laccia all'untore tra le persone. Sì, anche perché basta uno starnuto per un granello di polvere per creare il disastro. No, infatti, basta uno starnuto perché appunto non è una malattia che si passa così salutandoci da lontano, oppure questo poi viene detto. E l'ultima cosa, ovviamente, tanto per chiudere sull'untore, è anche che quello che si dice, che si legge, almeno il male è che ovviamente le categorie a rischio, tanto per tornare al parallelo con l'AIDS, ovviamente sarebbero le persone più povere. Quindi, per tanti motivi, per motivi diciamo di minor igiene, perché hanno famiglie più numerose, perché hanno una promiscuità di vita più continuativa, nel senso che vivono molto in strada e con la collettività sociale che li circonda. E questo può portare, insomma, come dire, gli esiti che ci possiamo immaginare, ecco. Eh sì, è abbastanza facile immaginarli. Va bene, ti ringraziamo, insomma, sì, siamo riusciti ad andare anche un po' più a nord e più a est di quello da cui avevamo iniziato, insomma. Buona continuazione. Ti ringraziamo e salutiamo, continuiamo qui in studio, ciao. Ciao. Mi voglio ricollegare alla testimonianza della compagna riguardo appunto a quello, al concetto di quarantena, che cioè la quarantena, allora in alcuni paesi, vabbè, negli Stati Uniti è stata diciamo posta all'inizio una quarantena forzata per gli operatori che tornavano, che insomma Medici Senza Frontiere, ma io insomma anche considero una misura abbastanza inutile, cioè mettere in quarantena chi è asintomatico, cioè chi ritorna e sta bene, però dopo aver prestato servizio e dopo aver fatto un duro lavoro nei paesi dove insomma c'è l'epidemia. Qui in Italia, considerando, scusami, per chi non è diciamo del mestiere, che ci sono dei modi facili per capire se uno è infetto, perdonami l'espressione, oppure no. Infatti, ecco, non bisogna parlato, aspettare però, 40 giorni per avere la certezza. Ci sono pure dei protocolli internazionali. Allora, infatti, per esempio, in Europa, comunque in Italia, non esiste una quarantena, nel senso che chi torna da, in questo caso io stessa, tornando da un paese appunto a rischio, che è la Liberia, praticamente dovrò seguire per 21 giorni, che sono i giorni di incubazione della malattia, un periodo di osservazione, quindi no quarantena, è un periodo chiamato periodo di osservazione, e questo è molto importante perché c'è molta confusione su questo. Durante questo periodo di osservazione io mi automonitorizzo, nel senso che io due volte al giorno misuro la temperatura corporea perché uno dei primi sintomi che puoi avere quando vieni, appunto, quando contrai l'Ebola è la febbre. Quindi misuro 2 volte al giorno la temperatura corporea. È naturale che se io non mi sento bene, poi insomma i sintomi dell'Ebola non sono così, una fibricola, comincio a stare veramente male, cioè dolori muscolari fortissimi, febbre, un mal di testa incredibile. E quindi oltre a questo ho naturalmente fatto durante il mio periodo di permanenza a Monrovia la profilassi antimalarica, che è una cosa importantissima, perché la malaria purtroppo ha sintomi molto simili a quelli dell'Ebola all'inizio e quindi può naturalmente essere confusa e creare il panico. E naturalmente oltre a questo io qui in Italia ho dato a Medici Senza Frontiere il contatto di un ospedale e che naturalmente mi prenderà in carico nel momento in cui sviluppo i sintomi. In questo caso l'ospedale è l'ospedale Spallanzani, spero di non averne bisogno. Alessia, quindi possiamo asserire con certezza che finché non ci sono sintomi una persona non è contagiosa? Assolutamente sì. Cioè una persona sintomatica assolutamente non è contagiosa e nelle prime ore ma anche i primi 2 giorni anche dallo sviluppo dei sintomi della febbre il virus non si riproduce molto velocemente e quindi una persona è difficilmente contagiosa, anche perché appunto nelle prime 48 ore a volte è anche difficile avere un test positivo all'Ebola perché ancora non c'è stata una adeguata risposta immunitaria e quindi non si riesce a trovare appunto l'antigene, quindi il virus dell'Ebola nel sangue. Benissimo, io non so se volete aggiungere ancora qualcos'altro, diciamo, sul tema in questione. Io volevo solo se Alessia poteva raccontare un episodio che io tra l'altro ho letto sul sito di Medici Senza Frontiere, almeno per dare anche una nota positiva a tutta questa storia. Del bambino che avete curato, ho visto delle foto, se ti va di raccontare la tua esperienza personale, mi sembra una cosa molto carina. Allora, come dicevo prima, l'Ebola richiama appunto pensieri di morte, distruzione, però poi noi oltre come operatori umanitari, oltre a viverci momenti molto difficili, ci siamo anche vissuti momenti molto emozionanti e uno dei momenti emozionanti è stato proprio questo incontro e questa amicizia con questo bambino di 10 anni, Momodou, che naturalmente è rimasto positivo all'Ebola, viene, non so dire da chi è stato portato al centro, comunque un bambino che ha perso tutta la famiglia, purtroppo perché contagiata dall'Ebola, rimane solo orfano e si trova nel nostro centro. E Momodou quando arriva non ce la fa neanche a alzarsi dal letto, è molto malato, ma all'interno del nostro centro, in questa zona che viene chiamata ad alto rischio, dove sono i pazienti, Momodou trova una cosa bellissima, che è la solidarietà degli altri pazienti, quelli che stanno meglio, perché comunque chi riusciva a sopravvivere cominciava a stare meglio, comunque c'era chi correva, chi ballava e quindi tutti lo aiutano a bere, che è una cosa fondamentale per evitare la disidratazione, lo aiutano a mangiare e quindi Momodou reagisce di giorno in giorno e comincia a camminare. Quando io arrivo praticamente lo vedo e siccome insieme con me avevo portato insieme a varie cibarie fondamentali in alcuni paesi e anche dei blocchi dei colori, gessi, pennarelli, tantissimi colori, gli do questo blocco con i pennarelli e praticamente il giorno dopo scopro che Momodou ha fatto tantissimi disegni molto belli ma anche molto simbolici, perché rappresentavano la sua famiglia, perché rappresentavano la bandiera liberiana e lui tutti i giorni disegna tantissimo. Allora io gli dico: Momodou, gli attacchiamo questi disegni e li facciamo vedere a tutti gli altri pazienti, sa, così un po' di colore. E lui insomma era d'accordo. Poi il mio collega, un medico statunitense che lavorava con me, decidiamo di fare delle foto. Ovviamente lui stava nella zona a basso rischio con questa macchinetta, io mi avvicino con questi disegni, diciamo al confine tra le due zone, facciamo le foto, le facciamo ingrandire e le stampiamo e praticamente Momodou poi, con il passare dei giorni, è guarito, cioè un bambino di 10 anni solo, con l'aiuto degli altri, comunque anche il nostro supporto, è guarito, è uscito. Gli abbiamo regalato questi disegni che lui aveva fatto, quindi era contentissimo. Però una cosa che io nella storia non ho detto e che è molto importante è che uno dei pazienti, un signore che praticamente aveva aiutato Momodou tutto il tempo, anche lui guarito, decide di adottare, in via per adesso informale, Momodou. E quindi Momodou, una volta uscito, è andato a casa di questo paziente, che c'aveva altri due bambini che non erano suoi figli, che erano stati anche loro, insomma, contagiati. Esatto. E queste sono storie che purtroppo si raccontano poco, però per noi, anche per risollevarci il morale dopo una giornata a lavorare, a vedere purtroppo morti, e insomma ci facevano bene. È arrivata una telefonata, una domanda per voi. Si chiedeva un commento sulla dichiarazione di Gino Strada, che dice che è totalmente impossibile che i profughi che arrivano con le navi e con i barconi, insomma, riescano a portare l'Ebola, ma che è molto più probabile che arrivi con gli aerei di prima classe. E lei, insomma, l'ascoltatrice, la compagna ha chiamato, voleva un commento su questa cosa. Diciamo che rispondere la cosa già è stata spiegata, nel senso che comunque questo virus si sviluppa in regioni molto povere, e comunque è stato anche spiegato che nella fase asintomatica il virus non è contagioso, e comunque difficilmente un paziente della periferia della Liberia o della Sierra Leone può arrivare con un aereo in prima classe in Italia. E chiaramente è più facile che un occidentale che va per lavoro, operatori che tornano, che raramente comunque possono. Comunque non mi è sembrata una bella battuta, sinceramente, a me. Non mi è sembrata una bella battuta. Sì, perché, no, forse se riveri, perché se non è che i ricchi, cioè, purtroppo chi poi l'ha riportata sono stati operatori sanitari. Certo. Quindi lo sì, ma anche. Evidentemente Gino Strada voleva dire che effettivamente non si arriva con i barconi, col fatto che ha spiegato molto bene l'operatrice di Medici Senza Frontiere, in quanto l'incubazione, poi sappiamo, noi è inutile, ci siamo interessate tantissimo all'immigrazione dei barconi, ai mesi che passano nel deserto. Ma scusa, se questi avessero sviluppato, ma sono morti nel deserto, sono morti alla frontiera. Quindi è chiaro che Gino Strada giustamente dice arrivano con gli aerei di prima classe, perché possono arrivare anche i neri ricchi, perché il mondo non è che si divide spesso tra nere e bianche, ma chi c'ha i soldi e chi non ce li ha. Quindi un nero commerciante ricco prende la prima classe, può essere pure lui infetto, tutto qua. Quindi secondo me è appropriata ed è giusto spiegarla. Ci può stare. Ma anche bravo, perché Gino, poi un migrante, cioè, è costretto a affrontare un viaggio molto lungo e faticoso, e una volta che tu vieni contagiato dall'Ebola, se non hai un supporto, che per ora è soltanto un trattamento appunto di supporto come l'idratazione, e la prima cosa che i migranti purtroppo devono subire è una disidratazione molto forte, e il virus si replica molto velocemente, quindi diciamo che insomma, un migrante, se dovesse anche avere l'Ebola, non ce la farebbe mai a raggiungere il nostro paese. Benissimo, io andremo a concludere, perché insomma siamo ci sono anche le altre cose da raccontare. Volevo finire, diciamo, con la tua esperienza personale, nel senso, al di là di tutto quello che è successo e di cui abbiamo parlato, no? Tu hai un lavoro, diciamo, un'attività, non sei andata lì perché ci hanno mandato, ci sei voluta andare tu. Ci puoi raccontare un po', in breve, per quanto sia possibile, perché poi uno fa queste cose, e soprattutto, diciamo, che cosa si prova, l'hai detto anche all'inizio, no, quando abbiamo cominciato, a tornare in Italia e a scoprire tutta una serie di atteggiamenti pesanti, brutti, come quello di essere appunto messa da parte in quanto possibile appestata, vedere tutta una serie di cose che succedono, insomma è un'esperienza molto diversa, è un'attitudine molto diversa da quella che spesso ci viene raccontata e insomma viene considerata più normale, ecco. Ti senti un po' un'aliena a volte? più che una linea, a volte mi sono sentita una minaccia. Insomma, non è bello sentirsi una minaccia per persone che, insomma, per persone care che sono sempre state vicine. Però sto cercando, insomma, di capire anche questi atteggiamenti. A volte non è semplice, non è semplice, perché comunque ancora mi porto dietro tanto del carico emotivo che ho preso da Liberia. E poi come operatrice di Medici Senza Frontiere, poi come infermiera, avendo già fatto altre missioni, io questa volta, non so, ho sentito, e non voglio parlare di vocazione, per favore, però per me, cioè, appunto il fenomeno Ebola è stato, cioè, qualcosa che mi ha colpito molto, e l'ho trovato anche una malattia, scusate se uso questo termine, interessante, nel senso qualcosa che su cui ancora c'è molto da indagare, ricercare, e mi sembrava anche a livello professionale per me qualcosa, un'esperienza molto importante. Poi naturalmente quella umana è stata enorme. E naturalmente poi mi sono anche chiesta, ok, Medici Senza Frontiere mi chiede di partire, ma c'è un rischio, cioè per chi parte c'è il rischio comunque di contagiarsi, non è proprio zero, nel senso è basso, ma esiste. E quindi, insomma, potete capire, all'inizio, qualche giorno prima della mia partenza, la paura era molto grande, diciamo che la motivazione era più forte della paura. Naturalmente questo ai miei genitori, ho cercato di spiegarglielo in tutti i modi, ma immaginate pure per i genitori quanto deve essere difficile accettare, insomma, una decisione del genere, ma anche per tutti gli amici, per, insomma, c'ha una relazione anche per il proprio compagno o compagna, quanto è difficile. Poi torni con, insomma, aver visto e toccato con mano una tragedia così grande, e appunto c'ho questa, a volte parlo pure troppo, nel senso, perché c'ho questa voglia di testimoniare, far capire, spiegare. E purtroppo però a volte non è abbastanza, nel senso che vorrei, insomma, che le persone che hanno paura ad avvicinarmi, insomma, in qualche modo si informino, e se non bastano le mie informazioni si informino per conto loro, e insomma abbiano il coraggio di abbracciarmi, perché adesso, insomma, di quello ho bisogno. È quello che abbiamo cercato, insomma, di fare anche noi nel nostro piccolo, e ti ringraziamo a te, a voi. Grazie anche a voi. Perché, insomma, facce nuove, ma anche facce più antiche, che ci fa piacere di avere ogni tanto da queste parti. Chiudiamo qui, non credo che ci siano altre telefonate in arrivo, no, penso di no, per cui possiamo ringraziarvi ancora una volta e salutarvi. Disappear. Words once so clear. Only echo. Portata benissimo, perché evidentemente